E veniamo alla terza ed ultima puntata dedicata al cyberpunk. Terza ed ultima puntata oggi dedicata soprattutto a più l'aspetto sociologico. Nella prima puntata avevamo parlato con Sergio Giuffrida del cyberpunk come tendenza letteraria fantascientifica. Nella seconda invece abbiamo parlato con Antonio Caronia delle tecnologie riguardanti appunto il cyberpunk. In questa terza ed ultima puntata parleremo con Raffa Valvola e Gomma, redattori di Decoder, rivista internazionale underground, di riallacciandoci al discorso che avevamo, col quale avevamo finito la scorsa puntata, cioè col il fatto che queste nuove tecnologie portate alla microelettronica e dell'informatica producono una maggiore democratizzazione naturale dell'informazione. Democratizzazione dell'informazione in una società basata e controllata con l'informazione. Abbiamo iniziato a lavorare sulla controinformazione e sull'utilizzo alternativo degli strumenti tecnologici già nel 1983-84, quando gestivamo questo posto all'interno del centro sociale Leoncavallo che si chiamava Helter Skelter. Abbiamo deciso poi successivamente di fare questa rivista che si chiama Decoder, e per editarla abbiamo iniziato a usare i computer. Contemporaneamente a questo nostro interesse, a questo nostro uso dello strumento tecnologico per produrre controinformazione proprio in senso tecnico, costruirla, perché deve essere chiaro il fatto che ad esempio per far comporre una rivista si spendono un sacco di soldi, per farla battere tecnicamente, insomma impaginarla e tutto questo lavoro. Ecco, con i computer siamo riusciti a costruire una struttura che fosse di una rivista e non di una fanzine, strumento di comunicazione con il quale eravamo rimasti collegati e utilizzavamo fino a qualche tempo prima, e quindi a fare un certo salto di qualità. Contemporaneamente, dicevo, abbiamo iniziato ad avere dei contatti con l'estero, soprattutto con l'Inghilterra e con la Germania, e a vedere che c'era della gente che similmente a noi aveva questo tipo di approccio nei confronti delle tecnologie, cioè utilizzarle in maniera assolutamente alternativa. Per ora tu hai parlato di usare tecnologie per fare della comunicazione, ma quindi rimanere sui binari normali, cioè comunicazione attraverso il mezzo scritto. Il mezzo informatico, proprio perché tratta informazioni in maniera digitale, cioè la trasforma in una base che è una sostanza che è immateriale, dà la possibilità anche di trattare i dati attraverso via cavo telefonico, e ad esempio dà la possibilità di costruire degli strumenti di comunicazione che possono essere ad esempio le reti, che è un progetto che noi siamo riusciti a realizzare, è partito da circa un mese, al quale si può accedere da 8 città d'Italia, ad esempio Milano, Roma, Trento, Livorno, Padova, Firenze. Dà appunto la possibilità di scambiarsi informazioni a dei costi bassissimi e ad estrema velocità. Ma praticamente come funziona? Allora, ci si appoggia in questo caso, per questa prima fase sperimentale che non sappiamo quanto tempo durerà, a delle aree, a delle BBS, Board Bulletin System, affiliate alla Fidonet. C'è da specificare subito che siamo ospiti e che non tutta la Fidonet a livello nazionale aderisce a questa iniziativa, ma solo alcune aree locali. Dentro a queste BBS, appunto, dalla Fidonet ci sono delle aree che si chiamano cyberpunk. L'utente si collega tramite computer e modem, componendo il numero di telefono, entra in quest'area chiamata cyberpunk e ha la possibilità di leggere una serie di messaggi lasciati da altri utenti e di intervenire in maniera interattiva con questo tipo di informazione, lasciando scritta la propria informazione, cioè il proprio messaggio. E questa cosa secondo noi è importantissima, perché concretizza il fatto che il computer può essere utilizzato come strumento democratico, cioè serve a superare la classica divisione dei ruoli nell'informazione, in cui c'è un ruolo attivo e un ruolo passivo. Quindi io mi posso collegare con questa rete, acquisire informazione, ruolo passivo, ma posso anche acquisire un ruolo attivo scrivendo la mia informazione. Movimento cyberpunk, derivando appunto dai racconti di Gibson, da tutta la letteratura che sta dietro, che sta a monte di questo movimento comportamentale, si identifica spesso con quello degli hackers. È corretto questo? Che cosa si può dire in merito? Ma diciamo subito che è un po' ridicolo definire il cyberpunk un movimento. Il cyberpunk infatti è, secondo noi, un'attitudine, cioè l'attitudine riferita a quel determinato atteggiamento di cui ti parlavo prima, relativo all'uso delle tecnologie. Cyberpunk vuol dire essere coi piedi nella strada e avere la testa nelle tecnologie, cioè saperle dominare, saperle utilizzare per degli scopi che non sono stati quelli prefissati da coloro che le hanno costruite o le hanno progettate. Entra anche in parte la questione degli hackers, ma che secondo noi è una questione che va molto al di là anche degli hackers di computer. Possono essere considerati benissimo hackers i musicisti di musica rap e tutti coloro che lottano o agiscono contro quello che è il vincolo del copyright, cioè contro i diritti esclusivi di gestione di un'informazione che vengono sanciti da una serie di leggi. Ad esempio nel rap c'è una citazione continua di pezzi musicali altrui che vengono ricomposti per fare una canzone nuova. Chiaramente, proprio perché il cyberpunk come letteratura è stato un punto di aggregazione simbolico per tutta questa serie di esperienze, gente che lavorava sui computer, gente che faceva musica, oppure gente che ricicla pezzi di meccanica e poi li fa funzionare, oppure li usa come strutture artistiche, come ad esempio fanno i Mutoid West Company. Entrando più in specifico sulla questione di hackers di computer, c'è da dire che è assolutamente una reliquia del passato considerare l'hacker come colui che entra in una banca dati attraverso il suo modem e, non so, distrugge i dati. Infatti già da qualche anno si è diffusa come coscienza collettiva tra gli hackers quella che si definisce la pratica dell'hacking sociale e che fa considerare questi hackers più che come distruttori di informazione quanto organizzatori dell'informazione stessa. Uno dei loro principi, cosa che appare molto chiaramente dentro in questa antologia che abbiamo curato noi, è che ogni informazione è sempre deformazione e che deve essere garantito a ogni soggetto sociale, ad ogni uomo, la possibilità di intervenire sull'informazione deformandola. E come altri punti che sono secondo noi sempre importantissimi e che vengono proposti al mondo intero da questi gruppi di hackers come diritti inalienabili dell'uomo, ad esempio come potrebbe essere il diritto alla casa o al lavoro, c'è anche questo, che il diritto dell'informazione deve essere garantito a tutti per quanto riguarda l'accesso, cioè avere la possibilità di accedere a delle macchine per gestirsi direttamente la propria informazione, che la struttura dell'informazione sia assolutamente democratica, ed è per questo che tutta questa gente lavora nelle reti, perché nelle reti c'è un tipo di comunicazione che è assolutamente orizzontale, non verticistica, non controllata o filtrata dall'alto, ma un tipo di comunicazione che si sviluppa attraverso un modello rizomatico. Quando tu parli di democratizzazione dell'informazione, che cosa intendi? Che informazione intendi? Allora, innanzitutto bisogna fare una differenza tra informazione e comunicazione. Nel senso che la parola informazione ha dei sensi che sono diversi da quello della parola esattamente comunicazione. Per informazione sostanzialmente si intende un campo di trasmissione di conoscenze che sono sotto il dominio, sotto il privilegio linguistico, appunto del linguaggio, della comunicazione scritta o di tipo linguistico referenziale. diversamente comunicazione si intende sostanzialmente anche e soprattutto comunicazione di carattere corporeo, quindi una comunicazione che vada al di là del problema del linguaggio vero e proprio. Per dire, comunicazione è guardarsi negli occhi, comunicazione è mostrare che si è incazzati, comunicazione è queste cose qua, no? Evidentemente i due termini all'interno del dibattito contemporaneo sono stati volontariamente e anche un po' per ignoranza mischiati, nel senso che alcune volte si usa comunicazione al posto di informazione, informazione al posto di comunicazione, o i termini in maniera abbastanza impastata. È chiaro che il problema dell'informazione rispetto all'informatica non può risolvere il problema della comunicazione, quindi il problema della comunicazione corporea, che rimane evidentemente con un suo livello, con un suo statuto ontologico che non può essere riassorbito evidentemente dal problema stesso dell'informazione. Sono due livelli che marciano abbastanza paralleli, alcune volte hanno dei punti di contatto. Però è importante notare che l'informazione è assolutamente l'ambiente, diciamo così, in cui ogni uomo nella metropoli contemporanea è costretto a vivere. L'informazione l'uomo, diciamo così, il cittadino, la persona nella metropoli è continuamente bombardata dall'informazione, da informazioni. C'è un aumento informativo di fatto rispetto, non so, se consideriamo 30 anni fa, 40 anni fa. Mentre d'altra parte l'informazione stessa non soddisfa questo tipo di informazione che viene ricevuta, proprio perché stordisce, non soddisfa il livello comunicativo vero e proprio, cioè il momento della comunicazione corporea vera e propria. Per cui da questo tipo di scissione che si ha, si registra poi la necessità da una parte di ricorreggere l'informazione vera e propria, quello che tu ricevi, quindi la possibilità di essere finalmente interattivo e soggetto attivo, e quindi in questa maniera anche avere la possibilità di essere ancora di più soggetto attivo nei processi comunicativi veri e propri. Ma i due processi evidentemente devono andare insieme, altrimenti c'è il processo della dissociazione psichica, della reificazione. Potete fare qualche esempio più concreto di informazione, giusto per chiarire? Ma l'informazione della televisione è un'informazione in cui tu sei un bambolotto pronto a ricevere, ma anche quello della radio, perché evidentemente non basta poter telefonare alla radio popolare per essere soggetto attivo dell'informazione. L'informazione è, in questo caso, nella società tabo capitalista, è l'essere ricettore, ed essere un contenitore di quello che ti trasmettono gli altri. E quindi, in una maniera o nell'altra, anche teorici si sono soffermati su questo, quindi Baudrillard, quando ha scritto All'ombra della maggioranza silenziosa, quindi voglio dire, c'è un percorso anche teorico di ricerca su questo elemento. Invece, diversamente, l'informazione deve essere effettivamente quello di un processo da, per, verso e verso anche di me. Cioè, finché non esiste il processo di informazione in cui io posso comunicare, che ad esempio oggi c'è stato, mettiamo, i casini in Piazza del Duomo, e quindi poter comunicare anche ad altri soggetti come sono andati avanti, come sono successi questi casini, come, se mettiamo, si è comportata la polizia, evidentemente non esiste processo comunicativo vero e proprio, nel senso che io non posso entrare in interrelazione rispetto agli altri soggetti. Evidentemente ogni soggetto deve avere la possibilità, che poi è una possibilità che appartiene proprio allo statuto proprio stesso di essere umano, quello di trasmettere informazione, se no altrimenti si diventa semplicemente il terminale finale di un processo, e quindi in questo senso è effettivamente caso concreto, nel senso che se tu sei passivo, ok, sei l'ultima propagine, va benissimo, implosa di questo processo di informazione, ma non sei effettivamente momento decisivo, momento. Solo un processo informativo veramente democratico può aprire nuove fasi anche nei rapporti sociali tra la gente, insomma. Mentre invece, che cosa si intende per democratizzazione dell'informazione a livello più relativo alle tecnologie microelettroniche, cioè queste nuove tecnologie informatiche che si stanno appunto... È indubbio che le industrie informatiche, le multinazionali della comunicazione e dell'informatica tendono a dare un unico senso dell'utilizzo dei mezzi. Noi in realtà crediamo che esista la possibilità di un uso alternativo dei mezzi elettronici, dei mezzi di trasmissione di comunicazione e di informazione. Noi abbiamo utilizzato un termine per questo, si chiama junk modernity, cioè modernità di scarto. Noi crediamo che ogni strumento può essere rigirato. Proviamo a prendere l'esempio dell'Amiga 500, che è un computer inventato per fare i giochini col joystick, eccetera, eccetera. Un Amiga 500 opportunamente truccato serve per fare videografica. E questo è uno dei tanti esempi su come si può, ad esempio, con un minimo di conoscenza tecnologica, si può invertire il senso dominante dato dalle multinazionali e dagli strumenti di formazione rispetto all'uso. Ritorniamo al discorso del copyright. Il copyright, il no copyright è un'esigenza intrinseca della tecnologia, cioè la tecnologia attuale ti dà tutti gli strumenti per spaccare il copyright, sia da un punto di vista della protezione dei programmi, dei dischetti, sia il fatto di copiarti di copiarti i dischi o di copiarti le cassette, sia di copiarti le immagini della televisione. Loro ti danno questi strumenti, il problema è di riuscire a ribaltare completamente questa inversione che è già implicita dentro la tecnologia e di riportarlo finalmente al senso vero delle cose, cioè al senso sociale delle cose. Voi come vi muovete in proposito? Noi abbiamo fatto una rivista che credo possiamo rivendicare tranquillamente, è stata la prima negli anni 80 a reggere gli anni 80 e ad arrivare con un progetto agli anni 90. E noi fin dall'inizio noi siamo stati una rivista che abbiamo sostanzialmente, credo, tra alcune delle organizzazioni che in Italia hanno fondato il Copyright Liberation Front. Significa dire proprio significativamente che la rivista si può copiarla, la si può riprendere e riprodurla poi per il senso sociale che... Poi dal punto di vista concreto, ad esempio la videozine che lui citava che abbiamo appena finito di fare, è una videozine che è stata volontariamente fatta. Per un video spiega che cos'è una videozine. Come la parola fanzine, no? Che significa appunto magazine, cioè quindi rivista e fan, quindi una rivista dei fan, dei gruppi che era all'inizio. Fine degli anni 70 è stata l'origine della storia del punk, così anche abbastanza analogamente la parola videozine significa quindi in pratica una rivista artigianale fatta di immagini sostanzialmente, quindi nient'altro che una videocassetta. Però attenzione, l'elemento importante di queste videozine è che noi abbiamo fatto una cassetta buona dal punto di vista professionale utilizzando appunto tecnologia da junk modernity, cioè tecnologia di scarto. Abbiamo voluto cioè mostrare che è possibile fare un buon prodotto e che produca senso sociale con pochi mezzi. Da quello che dite sembra che la figura magari un po' decadente, romantica, che si trova nei romanzi anche di Gibson, del Laker, di questo cowboy, così in pratica non questo, chiamiamolo così, movimento cyberpunk non l'abbia ereditato. No, diciamo che è un po' il contrario, perché Gibson, e tra l'altro l'ha detto a noi direttamente, si è molto ispirato alle cose che stavano succedendo. Infatti quella cyberpunk è da considerarsi una fantascienza che va a descrivere il reale, e non a caso i suoi referenti storici precedenti sono Dick e Ballard, e non sicuramente tutta la fantascienza reazionaria che ad esempio dava, non so, il pianeta sconosciuto oppure l'eroe muscoloso che libera la principessa rapita. Quindi un qualcosa di molto legato alle cose che stavano succedendo. Chiaramente poi per esigenze letterarie e per romanzare un po' tutta la questione, Gibson ha dovuto inserire questi elementi qui, creare una figura di un eroe che è sempre negativo, però solitario, non si sa se vince se perde, e se vince lo fa sempre in una maniera molto ironica. Diciamo che è stata un po' un'esigenza appunto legata al mezzo che lui stava utilizzando, ecco. Invece la realtà è molto diversa. Basti solamente citare il fatto che uno dei fondatori della Apple Computer, cioè Steve Wozniak, è uno di questi famosi hacker di cui stavamo parlando precedentemente. Infatti, proprio perché pensava che il computer dovesse essere uno strumento democratico, è andato a progettare questo sistema ad icone, ereditandolo tra l'altro da un progetto IBM che poi l'IBM non pensò mai di concretizzare. Appunto ha creato questo sistema che funziona a icone, che permette anche al soggetto che non è troppo esperto di linguaggio informatico, che fa fatica ad esempio a usare il DOS, a dare questi comandi scritti, di poter lo stesso rapportarsi con la macchina. E poi, cosa molto positiva, adesso Steve Wozniak, dopo essere uscito dalla Apple Computer perché si era rotto le scatole di avere rapporti esclusivamente commerciali, è uno dei membri fondatori dell'Electronic Frontier Foundation, che è un collettivo importantissimo negli Stati Uniti e che oltre a Wozniak tra i suoi membri conta anche l'inventore del programma Lotus, che è uno dei programmi più diffusi nel mondo, e John Perry Barlow. Questo collettivo si occupa della difesa legale degli hackers che sono stati coinvolti in giudizio, quindi processati. E diciamo che il bagaglio giuridico su cui si basa la difesa degli hackers è proprio relativo a questo, cioè che l'informazione deve essere qualcosa di completamente a disposizione del popolo, e chi supera questa soglia della legalità deve un forzatore che apre delle porte verso i confini della libertà, quindi considerato in maniera estremamente positiva. Noi siamo totalmente contrari all'aspetto calarizzazione, alla criminalizzazione di queste forme, diciamo pure di espressione, di creatività. Come ci si può collegare, come ci si può contattare con voi? Noi abbiamo costituito questa piccola cooperativa editoriale che pubblica la rivista Decoder, e il cui prodotto librario pubblicato al momento è questa antologia Cyberpunk, che si trova nelle librerie Feltrinelli, nelle librerie di Movimento e durante i concerti nei centri sociali in cui viene fatta la vendita militante. Per mettersi in contatto con la rete informatica, cioè con l'area Cyberpunk, per chi è di Milano è necessario un computer con un modem V21, V22 bis, che è uno degli standard per potersi mettere in collegamento, anche se la velocità è molto bassa, anche di 300 baud va benissimo. Si compone il numero 33000153. Si entra appunto dentro nella Fidonet, si va in area messaggi, si seleziona il numero dell'area Cyberpunk, che è la numero 13, e lì si incomincia a vedere il tipo di messaggistica che vi è contenuta. È importante notare che questa struttura è totalmente aperta e che non è dominio esclusivo di qualche gruppo rispetto a qualcun altro. Vi si possono collegare gruppi, collettivi o anche soggetti singoli, proprio per ribadire questo fatto che l'informazione deve essere disponibile a tutti. Si può leggere e soprattutto si può scrivere, cioè si possono lasciare messaggi con i propri pareri su delle cose che sono successe, con la propria informazione diretta su una cosa che si è vista, che si è vissuta o cose di questo genere.